lottare con il cuore, ma invidio i ciechi la capacità di guardare sempre un po' più in là. Invidio i muti la capacità di dire tutto con uno sguardo. Io che ho tutto al mio posto invece non vedo, non sento e non dico altro. Se il mondo fosse cieco ascolterebbe musica due volte tanto. Non avresti pregiudizi verso qualcun altro. Tutti siederebbero allo stesso tavolo. Tutti starebbero se stessi e non quelli che appaiono. Se il mondo fosse sordo dimostrerebbe amore con i fatti e non con le parole. Se il mondo fosse muto non direbbe le bugie. Sarei sincero con me stesso anch'io senza le mie. Se il mondo non avesse il tatto, baby, tu ed io saremmo più insensibili a uno schiaffo e più sensibili a un addio. Se il mondo fosse senza odore, ok, non mi farei ingannare dal profumo della vita che vorrei. Se il mondo fosse cieco sarei Stevie Wonder. Se il mondo fosse sordo sarei Beethoven. Se fosse cieco gli guarderei le pupille. Tra la verità e negli occhi come in bocca dopo 10 pizze. Zio, casca la terra e casca il mondo. E se il mondo fosse cieco non potrebbe vederci che andiamo a fondo. Se fosse muto non potrebbe chiedere aiuto. Se fosse sordo non sentirebbe il dolore, punto. Forse la vita è il bene più caro. Se il mondo fosse un regalo. Se non contasse quanto denaro. Se il mondo fosse un regalo. Se Dio camminasse tra gli uomini. Fosse un regalo. Forse la vita è il bene più caro. Se il mondo fosse un regalo. Se non contasse quanto denaro. Se il mondo fosse un regalo. Se Dio camminasse tra gli uomini. Se il mondo fosse un regalo. Se il paradiso fosse qui. Se il mondo fosse un regalo. Se il mondo non fosse cieco lo saprebbe che è rimasto al buio. Che dentro è marcio come un frutto nel sole di luglio. E non vi sembra assurdo che se il mondo ci sentisse ammetterebbe che la maggioranza è triste invece di mostrarci senza tatto. Che Galileo si sbagliava di fatto perché il pianeta è piatto. È da mo' che il mondo ha perso il gusto. Forse Gesù era solo un uomo giusto. Forse Gesù era Woodstock. Se il mondo fosse nostra madre potremmo stringerlo più forte e smetterebbe di tremare. Vorrebbe bene ad ogni figlio in modo uguale. Potrebbe dire alle città di smettere di fumare. Fumare. Se il mondo fosse cieco non vedrebbe il sole ma darebbe più valore a tutte ste parole. Sarei meno attaccato ad ogni cosa materiale. Sarei meno distaccato, sai che ti saprei ascoltare. Se il mondo fosse muto parlerei col corpo in un minuto. Capiresti se ti sto chiedendo aiuto. Se fosse sordo non saprebbe quanto fa la musica. A volte una canzone salva delle persone. Forse la vita è il bene più caro. Se il mondo fosse un regalo. Se non contasse quanto denaro. Se il mondo fosse un regalo. Se Dio camminasse tra gli uomini. Se il paradiso fosse qui. Se il mondo fosse un regalo. Forse la vita è il bene più caro. Se il mondo fosse un regalo. Se non contasse quanto denaro. Se il mondo fosse un regalo. Se Dio camminasse tra gli uomini. Se il mondo fosse un regalo. Se il paradiso fosse qui. Se il mondo fosse un regalo. Carino! Questa è per Emilia, J-Ax, Emischilla, Marrakesh, rap per Emilia. Grazie Torino!